Una buonasera a Radio Città Fujiko in compagnia di Max Macchia, in compagnia di 451 frammenti sonori, che tra l'altro questa sera vi saluta come appunto ultima trasmissione della stagione. Non fate così, non fate tristi, non vi preoccupate, che comunque ci sarà tra l'altro una piccola così appendice, non appendicite, potrebbe anche diventarlo nel caso, con Eliseo Scarpa appunto prossimo giovedì, dentro Intersezioni finiremo e concluderemo insomma insieme, come spesso abbiamo fatto per un bel po' di anni appunto dentro 451, e appunto come ultima trasmissione in mia compagnia, in compagnia di Max Macchia, questa sera vi accompagnerò dentro, oppure vi farò occultare per certi versi, anche qua non vi preoccupate, siete al sicuro, siamo soltanto in radio, sono soltanto onde radiofoniche, anche se anche da queste parti potrebbero come dire diventare pericolose, forse loro diventeranno anche, infatti 451 occultazioni, più forse è dentro quel così miraggio, se vogliamo chiamarlo tale, astronomico, quando un pianeta, un astro occulta un altro pianeta, un altro astro, un po' metaforica ovviamente la faccenda, ma anche un gioco sull'occulto, l'occultazione, il nascondere, no? Sia con la propria presenza musicale e sonora di questa sera, sia evocando magari pianeti, mondi appunto distanti, che però appunto vanno quasi a coprire poi i mondi originali. E per futuri rumori, ultima tra l'altro ultimo episodio di questo progetto Futuri Rumori, che insomma ci impegneremo a portare anche per il prossimo anno, abbiamo l'onore di ospitare Gioana Vinti. Futuri Rumori, che tra l'altro sì, come primo anno, quindi a dire insomma anche un po' che festeggiamo la prima annata insomma di questo Futuri Rumori, vi chiediamo anche di mandare materiale durante il periodo estivo, non si perde, non vi preoccupate, anche se magari saremo con la testa anche fisicamente da qualche altra parte, e per poi appunto poterlo selezionare, gli stessi anche che sono stati messi quest'anno, che hanno dei lavori nuovi, ben vengano, appunto come invito, senz'altro questo di Futuri Rumori, e come invito poi per gli altri che ancora non hanno fatto, che insomma sono lì per editare lavori, lo stanno facendo, lo devono fare, lo vogliono fare, lo faranno, ecco, appunto noi siamo qua ben contenti, felici anche spesso di appunto inserire materiali, poi d'altronde con 451frammentisonori.noblogs.org troverete la nostra mail 451frammentisonori.subvertising.org, forse l'ho detta per la prima volta, incredibile, sono riuscito a ricordarmela, e appunto attraverso questa mail mandateci materiali o mandatecelo fisicamente, non per il momento fisicamente qua in radio, visto che c'è uno spostamento in corso, quindi non vorrei che arrivasse, che ne so, all'appartamento di qualcheduno, magari nuovo stante dello stabile, dove per ancora pochi giorni sarà Radio Città Fujiko, appunto da dove vi sto trasmettendo, da dove vi sta trasmettendo Max Macchia. Gioana Vinti, un amico diciamo indiretto, perché no, speriamo che lo diventi anche direttamente, inserito già per alcuni aspetti, non lui direttamente appunto, ma attraverso l'Old Bicycle Record, che appunto qualche settimana fa abbiamo avuto in maniera molto felice la possibilità di inserire uno dei lavori editi appunto da questa etichetta svizzera veramente notevole. Gioana Vinti viene da Milano e lavora, come buona parte anche dei lavori molto interessanti sperimentali dell'Old Bicycle Record, e su materiali piuttosto scuri su profonde immersioni dentro sonorità che vanno a prendere tanto da certo glitch, ma anche da certa cattiva ambient, potremmo definirla così, ambientazioni oscure, detta ambient anche, senza però andare mai probabilmente a solcare i territori veri e propri, se così possiamo considerarli, della detta ambient, dell'industrial ambient, solcandoli appunto, avvicinandosi magari per un aspetto anche più vicino a certe glicerie o glisserie. Così facciamo anche un po' di francesismo, anche se forse bisognerebbe più pronunciarlo in tedesco, visto che è stata soprattutto la Germania terra di glitch, ma non solo quello ovviamente, c'era anche qualcosa di francese in effetti. E poi appunto un suono che rimanda, e qua veramente in maniera molto molto interessante, a quello che è stato percorso assolutamente eccezionale, e di delle avanguardie storiche e anche delle nuove avanguardie, quindi riferimenti a un suono che va a impattare tanto con certe elettroniche memory di certo Stockhausen, di certa colonia, e poi appunto quelle divagazioni che vanno a colmare anche quei territori solcati non sempre dalle sperimentazioni appunto anche recenti. Giovanna Vinti con questo Nox Lux va a prendere appunto da quel grande bagaglio della musica, delle musiche contemporanee, bagaglio non nel senso insomma bolognese per chi ci ascolta da Bologna, ma nel senso di insomma una grande quantità e qualità storica appunto data da questi suoni incredibili, da queste sperimentazioni, da questi iter che hanno portato, hanno spostato le musiche di fatto del Novecento dentro l'elettronica, spostandole poi tutte di fatto. Ecco, Giovanna Vinti ci sembra sia piuttosto cosciente e utilizzi appunto anche in maniera piuttosto piuttosto intelligente quello che è appunto un sostrato che affonda appunto dentro le musiche contemporanee appunto soprattutto delle neoavanguardie, e lo riesce a fare appunto creando questo flusso sonoro veramente decisamente ipnotico anche nel suo appunto farsi scuro, nel suo occultare, nel suo nascondere e nascondersi appunto come anche dimensione sonora, come dimensione generale, che quindi attira in un certo qual modo. In questo senso c'è appunto una specie di attraversamento insomma di percorsi che vanno imposti piuttosto curiosi, indefinibili appunto in questo senso. Poi si può parlare anche come dire anche di fuoriuscita poi da quello che è l'occultazione, ma probabilmente c'è un primo momento appunto di occultazione, pianetiche sembrano quasi stratificare la visione, e a questo punto anche il senso sonoro appunto del lavoro è veramente molto buono di Giovanna Vinti. Ci andiamo appunto ad ascoltare per iniziare questo Futuri Rumori, questo 451 frammenti sonori, ultima trasmissione della stagione scolastica, potremmo dire 15-16, 2015-2016. Buon ascolto quindi, ovviamente. Thank you. Gran disco, questo Nox Lux di Gianna Vinti. Avete sentito come si possa appunto coniugare il verbo delle neoavanguardie? Prima citavamo insomma uno su tutti, le elettroniche di certo Stockhausen degli anni 50, ma poi appunto tutta la glicceria che poi appunto si sviluppa durante il pezzo, questo appunto tunnel, come dicevo prima, dentro questi futuri rumori appunto di questa sera di Nox, di Gianna Vinti, che però riescono a trovare una via d'uscita, se non in termini umorali, quindi di carattere, insomma, anche molto forte, che dà il pezzo in termini insomma di ascolto e di una fruibilità che chiaramente si ammorba in una sorta di qual misura dentro però suoni che poi riescono evidentemente a creare una struttura anche piuttosto forte. In questo senso appunto il tunnel ha una via d'uscita, citando insomma i 451 frammenti sonori di questa sera, di quest'ultima sera appunto della stagione 2015-2016, e anche appunto un'occultazione che viene maturata poi attraverso appunto tanti ascolti, immaginiamo, di Gianna Vinti, ma anche appunto un percorso musicale che appunto potremmo dire nasconde molte cose, ma ne esprime anche tante e le rende anche piuttosto chiare, se non fosse appunto che tutta l'umoralità di Nox Lux, disco appunto edito dalla benemerita Old Bicycle Record, etichetta svizzera che stampa soprattutto in cassetta, come appunto questo Nox Lux del milanese Gianna Vinti, che tra l'altro è anche dentro altri lavori piuttosto interessanti come Iena e Facheta, oltre che essere dentro un collettivo come Resistance. Quindi è anche molto interessante proprio un discorso tout court che fa Gianna Vinti, che è molto interessante sia in termini appunto di musica, di linguaggio musicale, ma anche di linguaggio appunto tout court, di linguaggio appunto che copre anche quel senso sociale che è la musica, e quel linguaggio che poi va anche appunto a sfociare in un linguaggio politico che appunto è aperto in questo senso anche alla sperimentazione appunto di tipo sonora. E per insomma chiudere ci sembrava un'ottima occasione quella appunto di mettere Gianna Vinti, e probabilmente quello come inizio di 451 occultazioni. Ci sembrava ottima la presenza di Mary Davidson, che stampa un disco prezioso sia per senso pop, che tra le pieghe di un autre voyage si sente appunto dall'artista canadese, ma più che altro per i pezzi poi tra l'altro che andremo a ascoltare questa sera, questo anch'esso riferirsi a un passato, stratificandolo ovviamente con quello che è successo nel frattempo. Qua forse un passato più recente, quello di certa sperimentazione elettronica e para cosmice, certe faccende che facevano diventare le musiche elettroniche una sorta di viatico industrial noir, come quello di Clock di Via, di certi Bar Dreams, oppure certi frangenti di Cabaret Voltaire, quelli del disco du Crepuscolo ad esempio, e appunto Mary Davidson, questa giovane canadese appunto, riesce a costruire sia in momenti appunto pop però legati a un chiaro segnale techno pop, sia altri invece legati più a quello che può essere luoghi scuri, lande scure di certi Tangerine Dream o di certo Klaus Schulze, mischiato appunto con questi rimandi di cui facevo appunto accenno poc'anzi, che possono essere soprattutto certi clock di via di Barry Dreams, che poi è un disco appunto di profondo incrocio, profondo anche inserimento dentro quello che era la mutazione, il corpo mutante appunto dell'elettronica della fine degli anni 80, dei primi anni 90, quindi con quel percorso eccezionale che per alcuni versi in Otro Voyage si sente e si risente anche, e quello appunto di una mutazione di pelle e anche addirittura di corpo sonoro e di buona parte dell'electronic body music, ma anche appunto di quella techno che si era cibata tanto di industrial quanto di techno pop, e anche di quel senso oscuro che ha avvolto buona parte insomma delle migliori pagine del appunto industrial noir, se vogliamo insomma chiamarlo così, definirlo in questa maniera, cosa che tra l'altro riprende anche a livello iconografico anche in maniera piuttosto forte Mary Davidson, anche con collaborazioni tra l'altro di videomaker, e anche lei di fatto insomma ha una caratterizzazione visiva piuttosto forte, piuttosto importante. Occultazioni quindi di Mary Davidson con Un Autre Voyage. Mary Davison, canadese, francofona, come avete sentito, è un altro voyage. In effetti si tratta di un altro viaggio, un altro viaggio che può significare appunto un altrove appunto ricercato attraverso un iter musicale che, come accennavo prima, va tanto a prendere da certo techno pop, soprattutto questo cantato così decadente, potremmo dire, se non fosse che poi appunto c'è una ricerca che appunto la toglie anche dalla semplice, perdonatemi, insomma, decadenza così iconografica, ma anche sonora di certo, insomma, dark, che tranne forse una forte estetizzazione, forse ha lasciato ben poco in termini capiamoci in questo senso, in termini soprattutto di sviluppo musicale, mentre invece altro certo techno pop, quello più futuristico, quello con un immaginario più forte, magari anche con quella matrice che proveniva da certe musiche cosmiche, come appunto la Mary Davidson, tra l'altro, cita tra le proprie influenze, in primis Klaus Schulze, ma prima, come non riferirsi nel pezzo che abbiamo proprio ascoltato, nella prima occultazione, che era appunto un chiaro riferimento, o se non era chiaro, comunque si rende poi chiaro nell'ascolto a certo Buried Dreams di Clock DVA. E poi appunto questo noir che si espande in tutto questo viaggio, appunto, e quindi anche in senso quantitativo, no? Un ennesimo viaggio dentro le materie nere, noir, quelle nate con la collaborazione, tra l'altro, di David Christian, filmmaker. Appunto, prima dicevamo, come dire, anche qua l'influenza filmica, in particolar modo appunto la collaborazione con David Christian influenza molto il percorso di Marie Davison, e senz'altro tra i non citabili, ma perché non citabili? Perché è sempre occultato qua veramente da altri pianeti, ma magari più così, più visibili rispetto a quello che è stato uno però dei percorsi senz'altro più curiosi e più interessanti tra cosmiche che andavano a impattare con certa elettronica industrial, ma anche sperimentale nel senso più aperto del termine, certe visionarietà che venivano solcate da Bernard Sanier insieme a Karel Behr in Hypothetical Prophet, ultimo disco della loro brevissima ma molto intensa attività. E poi, tra l'altro, Bernard Sanier farà delle cose molto molto interessanti, e in termini di visionarietà, tra l'altro, abbiamo passato qualche tempo fa appunto il suo Vision of Dune, uno dei grandi momenti, insomma, della fantascienza, e anche qua uno dei grandi momenti forse persi, occultati da un'altra cosa, cioè il film che doveva essere fatto, il vero forse film su Dune di Jodorowsky, perso nelle risme, potremmo dire, di produttori così poco avveduti, e senz'altro, insomma, dentro certe limitazioni commerciali che non hanno portato, insomma, al compimento di un'opera che poi fu occultata, ma parzialmente per un breve momento, da un film decisamente non riuscito da parte di David Lynch, dello stesso David Lynch, poi è anche in una sorta in qual misura abbandonato, con alcuni momenti, insomma, buoni, ma di fatto è una così una dimensione molto persa di dune, non nel senso buono, ma proprio persa nel senso di smarrita, e di non è riuscito di fatto a trovare quella qualità visionaria, quell'eccezionale viaggio che appunto era tra le righe appunto del romanzo, e tra le righe della sceneggiatura anche appunto di Jodorowsky, insieme, insomma, un progetto mastodontico, eccezionale, incredibile, e appunto forse anche per questo Bernard Sazier poi fece quel bel disco Vision of Dune, proprio forse per ridare perlomeno in termini musicali quel afflato incredibile appunto in termini appunto di psichedelie, di viaggi interstellari, ma anche di invenzioni poi sociali, invenzioni politiche che c'è dentro appunto la visione di Dune, e un progetto appunto insieme a Karel Behr di Hypothetical Prophet, tra l'altro quell'Hypothetical tra parentesi, anche quasi a ironizzare, forse a fare anche una sorta di autosarcasmo rispetto a una ricerca sonora molto interessante, che andava a prendere tanto da appunto certe forme virate in maniera noir di certa musica cosmica, e poi certe elettroniche che avevano un'evoluzione, un parallelo anche rispetto a quello che stavamo facendo a San Francisco, uno su tutti Residence. Proprio anche buona parte della wave appunto di quella zona, con quelle strane forme di surrealtà sonora che si venivano a creare. Forse più che Residence potrebbe anche proprio citare Renaldo and the Loft, con Loft e con loro dischi veramente di un altro mondo, creati in un altro mondo e forse adatti per essere ascoltati in un altro mondo, occultati anche qua appunto, quelli forse da astri maggiori, come quello appunto di Residence, che comunque poi ebbe anche modo di lavorare appunto con Renaldo and the Loft, e anche tra l'altro passato qua da 451 frammenti sonori più di una volta, e prendendo questo Around the World with the Prophet, quindi girando il mondo con questi profeti finti o veri che siano profeti, probabilmente di un certo modo di concepire la musica, sicuramente profetici, Marie Davison sicuramente tra le corde c'è anche Around the World Hypothetical Prophet, se non direttamente, assolutamente in maniera indiretta, proprio per quella capacità che hanno avuto loro, ma altri, di creare proprio una sorta di gestalt che è sì dentro le maglie di certe microstorie, che soltanto in alcuni momenti non sono state micro e sono appunto diventate più così esoteriche, potremmo dire disoccultate in questo senso, ma che adesso nel passare degli anni, e anche appunto con lavori di giovani progetti o di giovane formazione, di fatto stanno facendo riuscire come attitudine e come appunto altro viaggio, in questo senso in termini qualitativi e non quantitativi, dei Hypothetical Prophet con il loro giro del mondo, con appunto le profezie sonore di questi geniali francesi Bernard Zanier e Karel Behr.